Il governo guidato da Giorgia Meloni sta portando avanti una proposta di modifica della Costituzione che incide sulla forma di governo parlamentare con l'obiettivo di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio dei Ministri da parte degli elettori. Il progetto che è stato presentato dalla Ministra Casellati prevede essenzialmente che il Presidente del Consiglio venga eletto direttamente dai cittadini, che duri 5 anni, quindi l'intera durata della legislatura, si vota contemporaneamente sia per i parlamentari di Camera e Senato che per il Presidente, si prevede per la prima volta, almeno nella nostra storia costituzionale, che la stessa Costituzione indichi qual è il meccanismo elettorale, in particolare si ipotizza una legge elettorale maggioritaria con un premio alla coalizione collegata al Presidente del Consiglio dei Ministri, che se ha un voto in più dei concorrenti ottiene il 55% dei seggi di Camera e Senato. Ovviamente, essendo Presidente del Consiglio eletto direttamente, non ci saranno più delle consultazioni del Capo dello Stato, che dovrà ovviamente conferire al Presidente del Consiglio eletto l'incarico a formare il governo. Il governo deve avere comunque la fiducia delle Camere, votata a maggioranza semplice. Se non dovesse averla, la fiducia iniziale, è previsto che il Presidente della Repubblica gli rinnovi l'incarico, cioè chieda nuovamente al Presidente del Consiglio eletto di tentare una seconda volta di formare il governo. Se anche questa seconda volta il Presidente del Consiglio non dovesse essere votato, è previsto lo scioglimento delle Camere, cioè si torna a votare per ridare la parola al popolo italiano per l'elezione del nuovo governo, cioè del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo è un po' il contenuto essenziale di questa proposta, che è molto innovativa rispetto alla storia parlamentare del nostro paese, perché appunto prevedere l'elezione diretta del capo del governo significa trasformare il modello parlamentare in un modello primo ministeriale, che però non ha nessun precedente nella storia comparatistica. L'unico caso è il caso di Draiano, che negli anni 90 aveva inserito nella loro legge costituzionale l'elezione diretta del premier, è stata applicata per un paio di legislature, poi gli stessi israeliani sono tornati indietro, sono ritornati ad un modello parlamentare tradizionale perché in concreto non aveva garantito quegli obiettivi di stabilità per i quali quella riforma era stata inserita in quel paese. Quindi si tratterebbe di un unicum nel contesto comparatistico occidentale. Noi sappiamo che attualmente la nostra Costituzione è un bilanciamento di poteri e di equilibri, in questo modo verrebbero alterati? Non c'è dubbio che cambierebbe il volto del parlamentarismo. Oggi gli elettori possono scegliere i propri rappresentanti alla Camera e al Senato e in base alle maggioranze che si formano nei due rami del Parlamento nasce il governo, che è in tutto dipendente dagli equilibri di maggioranza e opposizione che si formano nelle Camere. Prevedere l'elezione diretta del capo del governo significa ovviamente alterare questo schema, perché gli elettori avranno a disposizione 2 voti, sia per i parlamentari sia per il premier, ma il voto è condizionato evidentemente dalla scelta del Presidente del Consiglio dei Ministri e quindi si verticalizza notevolmente la scelta elettorale. Si supera il modello parlamentare, questa è la verità. Quindi l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri presidenzializza, senza adottare il modello americano o il modello francese, il sistema di governo. Cambiano i ruoli di tutti i poteri, cambia il ruolo del Capo dello Stato, che perde la possibilità di farsi interprete del voto elettorale per scegliere il governo in grado di guidare la maggioranza, perché di fronte a un Presidente del Consiglio eletto appunto la scelta del Capo dello Stato è una scelta obbligata. Lo stesso rapporto che c'è tra Parlamento e Presidente del Consiglio dei Ministri cambia, perché oggi il voto è un voto al governo, inteso collegialmente, per effetto di questa elezione diretta invece le Camere daranno un voto al Presidente del Consiglio dei Ministri. In ogni caso i risultati bisognerebbe vederli ex post, cioè una volta che questo meccanismo dovesse essere approvato, ma non c'è dubbio che eleggere direttamente il Presidente del Consiglio dei Ministri significa uscire dal modello parlamentare così come noi oggi lo abbiamo concepito. E il problema poi vero è capire se questa risposta istituzionale, se questa soluzione risponde effettivamente ai problemi della stabilità, della governabilità di cui ci si lamenta da anni in questo paese.